diciamo ciamo. O baloco dice Fuzzi, un poeta ribellino, in questa sorta di testo marino, ciamo monta alla danza. Vado diretto diretto per ciò che canto per la mia gente. Siete mambuno e siete mamò, senti che arrivo potente. Non mi fotte di niente se tu parli sola pampera. È rosso e giallo e verde la speranza che ti schiaccerà. Canto diretto rilassato su sto ritmo, imposto su sto ritmo perché tuttavia più senso. Il sole unito al mare spinge il suono d'oltreoceano. Qua dentro nella denso le pareti intorno tremano. Canto sta musica, un solo vero amore. E tutto intorno a me c'è sempre solo il sole, il tutto quanto spinto da questa grande passione che illumina la yard con tutto il suo calore. Non faccio altro che parlare di ciò che mi sta intorno e tutto sembra splendere come fosse giorno. Le calze, i miei guaglioni sono tutto ciò che voglio. Non mi fotte di niente, basta mente che oltre un foglio. Campo marino, mamma, arrivo in rima. La gente già lo sa, mi devi portare stima. Che parli e ti mostri com'è il più grande. Se ci mettiamo d'impegno, ti lasciamo in mutande. Vado diretto diretto per ciò che canto per la mia gente. Siete mambuno e siete mamò, senti che arrivo potente. Non mi fotte di niente se tu parli sola pampera. È rosso e giallo e verde la speranza che ti schiaccerà. Siamo fatta da cui è una ballata molto speciale. Lo dialetto che nessuno se può mai scusare. Catedra senza lì bene non se può più levare. E si antime buono sta cultura la coltivare. Dai di quando ha già nato che io parlo così. Chi c'è crea un legame con la terra don capivo che è ricca di frutti che sta terra fa già sì. Sto attaccata a sto paese don ca già amore. Stiamo qui di tradizioni e purtroppo mo dei bagnoni. Si sta scordo non ci siamo noi tra sta nazione. Lì i cristiani che vengono di fuori che hanno sono e fiacche buoni. Ma spicciano carta in porto non l'utanza dei signori. Intratturno di odio stanno sti tre bagnoni che sta fanno libera musica. Pilli buene li cuglioni che di buone pesci picca ma sta vita migliora. Aria taglia e muto fiacca non se può più campà. Vado diretto diretto per ciò che canto per la mia gente. Siete mambuno e siete mamò, senti che arrivo potente. Non mi fotte di niente se tu parli sola pampera. È rosso e giallo e verde la speranza che ti schiaccerà. Ora sì che insieme a Ovaloco in questo sorta di rega maffi sueco è lo tradizionale fotista amatoriale. Il nuovo compagi pesta ma non farebbe male. Come alcol, birra e siga crea dipendenza. Guai a starne in astinenza o a starne senza. Liello passa assicurato mal de panza. Bisogna assimilarlo con costanza. Ma la rima non me manca, la conserva la mia banca. Le pio le mie rime riportando la speranza. Tra questa danza canone di la paranza. Ma qua camacchio e la titanza. Mi tuffo tra l'umari pulito e splendente. Cauda azzurro e bento come la mia gente. Amo perfino i miei toglienti, scirocco tramontana. Sempre presenti e dico a te cristiano nordista che con le tue cazzate ti metti sempre in pista. Stai sempre a criticare ma le vacanze a guai. Vieni a passare allora, non rompete i coglioni. Godete di sti vacanze e stati buoni. Queste meraviglie da voi non lasciate perché ormai smog è merda. Vi respirate, scalo paesi mia, Giugio dello sotto, insieme allo frate dirige Fox. Questo è lo paesaggio da noi lodato e ogni giorno sempre più amato. Scalo paesi mia, Giugio dello sotto, insieme allo frate dirige Fox. Questo è lo paesaggio da noi lodato e ogni giorno sempre più amato. Vado diretto diretto per ciò che canto per la mia gente. Siete mambuno e siete mamò, senti che arrivo potente. Non mi fotte di niente se tu parli sola pampera. È rosso e giallo e verde la speranza che ti schiaccerà. Vado diretto diretto per ciò che canto per la mia gente. Siete mambuno e